affondiamo a letto, non riesco più a guardare sto soffitto. Scivolo sul pavimento, centimetri divisi col mio cane, mi cerco anche qualcosa da mangiare. E non ho visto ancora il Sud America, figurati l'aurora boreale. Non te l'ho mai detto, ma ti giuro che ci sto provando, ma arrivo sempre un po' in ritardo. E si nascondono nel mare le mie lacrime per te, dentro un quadro da rifare, tra le fessure del parquet, e fuori scoppia un temporale che sembra dedicato a me, mentre aspetto che squilli il telefono per trovare il coraggio di dirti allora dammi un bacio che mi trattenga il fiato, che scacci via queste nuvole, non vedi che tutto è inutile di te. La città è un inferno, io che ti cerco ancora in metropolitana, tra i gatti che rovistano la spazzatura.